siamo ritornati in diretta, 451 frammenti sonori è rientrata dopo ovviamente il break, per noi ovviamente, ma forse per loro non è un break, dopo il GR di Radio Popolare Network, 451 frammenti sonori, Radio Città del Capo. Ricordiamo anche, dato che non l'abbiamo ancora fatto, il nostro blog, anzi no blog, dato che 451frammentisonori.noblogs.org, appunto il blog aperto da noi insieme in collaborazione con Lorenzo Albano, che cura la parte tecnica e non solo. All'interno appunto di questo blog troverete tutte le trasmissioni in podcast, più playlist, curiosità, aneddoti, alcune volte anche dei video. Ecco, ti va bene, anche se ultimamente ci sono stati dei piccoli disguidi, per cui non troverete per adesso, ma cercheremo di ovviare al più presto le ultime due trasmissioni, ma chiaramente cercheremo entro questa settimana di ovviare a questa problematica. Ovviamente andateci, se volete scriverci, se volete fare dei commenti, suggerimenti, indicazioni, siete tutto molto ben accetto, anche collaborazioni o proposte, dato che ovviamente è un ambito estremamente aperto. 451 frammenti sonori riparte in questa nottata di maggio. Abbiamo affrontato nella prima parte, per coloro che si fossero messi in ascolto solo adesso, di Radio Città del Capo, di 451, puntata dedicata ad arte e catastrofe, parte seconda, dopo la catastrofe, la catastrofe, questo è il sottotitolo. Abbiamo aperto con Last Few Days, per arrivare poi, e non lo pronuncio, vai tu. Gerechtig Kites Liga, che poi lo sai meglio di me. Sì, però adesso non leggo bene la tua scrittura e non riesco. Coil, Soviet Friends, Urban Tribe e Anthony Nikila. E adesso invece abbiamo aperto la puntata, la seconda parte, con uno splendido lavoro di Alan Licht, un lavoro splendido realizzato nel 1999, Rabbi Sky, un'unica traccia splendida, dove inizia il chitarrista assolutamente eclettico Alan Licht, con una parte assolutamente rumorista e catastrofista, per poi passare a questo drone estremamente desertificato e minimalista, con l'organo che dà l'idea assolutamente della catastrofe dopo la catastrofe. Si potrebbe giocare un po' sulla prima parte catastrofista, con questi rumori, con questa deflagrazione, devastazione, e poi arrivare alla fase della catastrofe dopo la catastrofe, ovviamente la catastrofe infinita rappresentata da questo drone dell'organo che sentite ancora in sottofondo. Un musicista assolutamente interessante, che nelle ultime puntate abbiamo anche proposto precedentemente, un Alan Licht che ha alle spalle un bel po' di storia musicale, dato che è iniziato negli anni 80, per arrivare appunto anche a degli splendidi lavori che abbiamo anche proposto in passato, più recenti. Ricordiamo ancora l'album Rabbi Sky, e da Alan Licht ci lanciamo in una formazione importantissima, anche questa un lavoro uscito a fine degli anni 90, e parliamo di Illusion of Safety. Beh, formazione di grandissime qualità sonore, visto che dentro quelle sperimentazioni, che si potrebbero anche riportare, perché no, lo stesso Alan Licht, c'erano anche Illusion of Safety dentro, sia dentro gli anni 80, paralleli ovviamente sia per Licht che Illusion of Safety, non erano ancora alle massime espressioni loro, che sicuramente saranno degli anni 90 e degli anni 0. Illusion of Safety inventano quel mondo parasurreale, potremmo dire, di immagini assolutamente inquietanti, un isolazionismo che va a cocciare con un rumorismo dronato, proprio come ad esempio stiamo ancora ascoltando in sottofondo da parte di Alan Licht, e portano una sorta di catastrofismo infinito, un suono che magari collegandosi anche a Soviet Friends della prima parte, va a cercare dentro le maglie dello stesso suono proprio quella grana sonora così scura, così tremendista, che fa delle musiche di Illusion of Safety tra le più evocative, sicuramente un'evocazione chiaramente catastrofista, ma con veramente propensioni anche a quello che poi è stato buona parte del drone anche degli anni 2000, proprio partendo da sperimentazioni come quelle di Illusion of Safety, si è cibato e lo sta facendo ancora, dando anche grosse filiazioni, figli dei figli, come dire. Daniel Burke, quindi il personaggio centrale di Illusion of Safety, andiamo a prendere Off and Day, questo appunto immagine desolante, assolutamente terminale, di Illusion of Safety. Illusion of Safety, ascoltati da Off and A, grandi americani che si tuffano dentro queste valli desolate, immaginifiche, uno spazio che va a incrociarsi chiaramente con una Black Star, una Dark Star, un sogno psichedelico che si fa infrangere dentro la catastrofe, e catastrofe che continua in una maniera direi più che animalesca, visto i grugniti che stiamo sentendo con Omit. Eh sì, infatti i grugniti che abbiamo voluto mixare con questa traccia sonora assolutamente inquietante, desolante, terminale di Illusion of Safety. Parliamo di Clint Williams, in arte Omit, personaggio assolutamente unico sulla scena musicale, musicista che già dalla fine degli anni 80 iniziava le sue sperimentazioni musicali piuttosto devastanti, utilizzando fonti sonore assolutamente assurde, da motori a autocostruzioni di praticamente strumenti musicali e fonti sonore. È stato anche per molti anni completamente isolato dalla, diciamo, dagli incontri con persone, se non con pochissimi soggetti con cui manteneva un collegamento a distanza sul piano proprio espressivo artistico. Musicista che per anni e anni ha prodotto i propri lavori, anzi autoprodotto attraverso cassette, fino ad arrivare poi ad alcuni album soltanto praticamente intorno alla metà degli anni 90, e uno di questi che abbiamo selezionato stasera, con questi grugniti, con questi maiali che sembrano appunto quasi presagire un mondo privo di esseri umani futuri, è soltanto con maiali o animali devastanti e devastati che rimangono praticamente a pascolare nei rimasugli della nostra civiltà. Punto di domanda. E Omit appunto rappresenta perfettamente questa idea di arte catastrofe, anche questa congiunzione. Ha un titolo veramente incredibile. Il disco, il titolo, sì, è veramente Interior Desolation, desolazione interiore, appunto. Credo che i maiali rappresentano perfettamente, poi parte il suono che ce l'andiamo a questo punto ad ascoltare. Abbiamo voluto fare un flusso insieme a Illusion of Safety col nostro intervento vocale. Godiamoci dunque il grande percorso musicale di Omit. Thank you.

Devastante lavoro questo che abbiamo ascoltato appena adesso, mixato insieme allo splendido altro lavoro Interior Desolation di Omit. Questa volta è un debutto insieme per la prima volta Anthony Pateras, già presente nelle ultime puntate di 451 Frammenti Sonori, musicista assolutamente eclettico che spazia dalla contemporanea minimalista elettronica a dimensioni tribali con echi anche connessi alla musica addirittura tradizionale folk rielaborata in chiave avanguardistica. In questo caso Anthony Pateras collabora per questo disco rumorista, devastante, apocalittico, insieme a un altro grande dell'elettronica assolutamente eclettico come Robin Fox. Il disco è Flux Compendium, che chiaramente, dato il valore anche della sperimentazione rumorista, non poteva essere che prodotto, ovviamente scherzo perché ci sono anche molte altre etichette, dalla Mego, che è un'etichetta specializzata e comunque molto attenta a questo tipo di sperimentazioni, e un disco uscito nel 2006 che vede nelle tracce che abbiamo selezionato, la prima traccia è la ottava, un titolo che insomma si calza a pennello con la trasmissione di stasera, Apocalisse adesso e dopo, e dunque è proprio dentro il discorso di stasera, arte catastrofe, dalla catastrofe, dopo la catastrofe, la catastrofe, dunque perfettamente dentro l'argomento. Un disco molto molto bello, sicuramente attento alla dimensione apocalittica e desertificata e distruttiva, forse più che desertificata, della dimensione apocalittica rumorista portata avanti da Pateras insieme a Robin Fox, con queste variazioni, questi schizzi rumoristici e quasi improvvisativi nell'utilizzazione delle apparecchiature elettroniche, anche se in realtà oltre a suoni elettronici digitali distorti e deflagrati troviamo anche dei trattamenti di suoni tratti ad esempio da oggetti o da registrazioni di suoni esterni, dunque concreti all'interno della manipolazione elettronica e post-produttiva. Da Flux Compendium di Anthony Pateras e Robin Fox apriamo. Eh sì, apriamo diciamo anche tutta la scena americana che comunque noi stiamo seguendo da questi ultimi 2 anni, che chiaramente anche qualcosina in più 3, sì, sì, 4 no, degli anni zero, buttiamola. Vabbè, buttiamo così, metà anni zero, metà, però metà, dai, non diciamo proprio 2000 perché mettevamo altre cose, no, comunque no. Da metà degli anni zero, e dato che parliamo di arte e catastrofe, non potevano mancare. Sì, appunto, da Flux Compendium a Big Sleep, il grande sonno dei grandi Dead Machine, scusate, un colpetto di tosse, e, Dead Machine che si muovono su suoni deflagranti come Pateras, con quella cattiveria in più quasi detonante degli americani, appunto, di questi ultimi anni. American Tapes, temibile, assolutamente etichetta discografica che si muove appunto su queste deflagrazioni, si muove su una sorta di catastrofismo assolutamente creativo, se pensiamo che dentro queste progettualità c'è veramente una buona genia del nuovo rumore degli anni zero e di questa anche decade che si è appena aperta. Uso e riuso, uso e riutilizzo del suono più trash, ma nel senso vero della parola, cioè quel suono che non si dovrebbe sentire, quel suono brutto, quel brutismo sonoro che viene riutilizzato in una maniera assolutamente creativa, creando appunto una sorta di mondo immaginario dentro delle catastrofi che si uniscono appunto ad una grande fantasia sonora, The Machine, che sono vicino ad esempio a Wolf Eyes, che troveremo tra qualche giorno anche qua a Bologna, quindi vi invitiamo anche a andare a vedere, probabilmente tra i padri della scena americana di questi anni per quanto riguarda il nuovo noise, se così lo vogliamo considerare. Si potrebbe considerare anche new catastrofe, new tremendismo, come un po' vi pare, nel senso che comunque si va di certo a prefigurare scenari insomma, apocalittici come minimo. Il tremendismo ti piace, lo stai usando molto. Certo, io sono un tremendista da una vita, e poi dedichiamo anche a un tremendista morto pochi giorni fa. Bravo che te lo sei ricordato. Un grande il Deus ex machina della neoavanguardia italiana per quanto riguarda il campo letterario, ma questa è assolutamente una cosa limitativa per Edoardo Sanguinetti, perché con il grande Luciano Berio il suo Laborintus è stato suonato, e come ha sempre detto nel corso delle sue esplorazioni, dei suoi esperimenti, tutta la sua letteratura era fatta per essere cantata, non soltanto quindi con Berio, ma con Scodanibbio, con il figlio di Liberovici, collaborazioni con Gelmetti, con Enore Zaffiri, insomma grandi dell'avanguardia per tanti aspetti differenti, ma appunto dentro quel grande calderone, e ce ne vorrebbe anche uno adesso, diciamocela tutta, neoavanguardista appunto di rottura, rivoluzionario, che fu appunto degli anni 60 in poi, che ci ha portato appunto al nostro Balestrini ancora in vita lui, ma che appunto può dare ancora filiazione di grande rilievo. Comunque dentro le neoavanguardie, se così vogliamo considerarle, ultra noise, Dead Machine con il loro grande sogno o sonno. Sonno. Thank you. siamo rientrati in diretta e praticamente abbiamo fatto un mix con Dead Machines e X04, un'altra formazione americana, della scena americana, estremamente rumorista, ma l'avrete sicuramente notato, una delle formazioni nuove uscita appunto negli anni zero, connesso ovviamente a tutta la scena rumorista. Un disco, quello che abbiamo selezionato stasera, diciamo uno dei dischi, diciamo, di ufficiali, possiamo usare questo termine, essendo quelli precedenti dei CDR e Characters, che è contemporaneo, sempre uscito nel 2007, insieme appunto al disco di stasera, che sono appunto Segnali Persi, Lost Signals, che possono anche stare molto bene rispetto al lavoro di Dead Machine, Il Grande Sonno, Segnali Persi, e possiamo utilizzare anche Primitive Future. Adesso vi faccio un'anticipazione, stanno proprio dentro anche gli stessi titoli degli album, dentro proprio il quadro apocalittico e catastrofico che tutta la scena poi americana rumorista, neorumorista, possiamo definirla anche così, rappresenta in maniera piuttosto forte, antesignana probabilmente anche della crisi scoppiata poi qualche anno dopo, cioè in realtà poi due anni fa, antesignani quasi a presagire a livello sonoro quello che sarebbe stata la devastazione che ha colpito in primo luogo gli Stati Uniti d'America, e poi adesso insomma stiamo vedendo gli effetti anche qua in Europa, in particolare la prima a essere colpita pesantemente la Grecia, ma non pensate che anche altri paesi europei non verranno travolti da questa situazione, e in testa anche la nostra cara e meravigliosa Italia, il bel paese, non so più di che cosa, ma in ogni caso saremo anche noi probabilmente coinvolti da questa situazione. Ecco, già lo siamo, però potremmo arrivare appunto a punte molto pesanti, punte molto pesanti. E sembra appunto... E il reddito ovviamente non si vede, il reddito minimo garantito, quindi tu come affronterai la cosa? Ma andrò sotto casa, non so di chi, sotto le case. Non vedo neanche le case. Vabbè. Ma le case le potremmo case costruire, sono, le case del futuro. Le case del futuro. Cioè le non case. Beh, comunque in mezzo alla strada le non case, le non case di cartone ci sono già, le non case, no, di però cartone. Sicuramente interessante, perché tutta la scena neorumorista insomma incomincia a emergere. Ti scordi di una piccola faccendina che ti stavo per dire adesso. Buona parte della scena americana nasce nei primi mesi, forse qualcosina anche ultima del 99, poco prima delle Twin Tower. È vero, anche questo, però l'esplosione. Sì, l'esplosione poi ci sarà dopo, sì, ma sicuramente ci sono dei riferimenti chiari, anche perché la scena poi di Brooklyn risentirà molto di quelle due deflagrazioni, e musicalmente insomma sono figli sicuramente di quelle due torri che appunto crollavano l'11 settembre del 2001, come d'altronde poi la prima bolla economica, l'economia virtuale tanto pompata da Bill Clinton, subirà appunto il primo scossone con appunto i primi mesi degli anni zero, e quindi ci sarà appunto la prima bolla, e scena che chiaramente nasce appunto sull'onda di una crisi e si sviluppa su quell'onda. In effetti poi lo tsunami sonoro avverrà proprio nella seconda metà degli anni zero, come dicevi tu. Sì. E tsunami sonoro che appunto dal Grande Sonno al Segnali Persi va dopo la catastrofe a trovare la catastrofe infinita, ovvero quella del una sorta di primitivismo, primitive future del futuro, una valle, quella disegnata da Factums, sì, tu ce l'hai vicina, cos'è, una roba è una foto, primitiva? Sì, è una sorta di disegno che ricorda quasi la Terra prima dell'era glaciale, insomma, vissuta da dinosauri, animali, strani, brutti. Sì, ci sono piante, cose strane, insomma, sì, una dimensione primitiva sicuramente. Dunque, un disegno che colloca un ipotetico ritorno al passato, no? Al passato remoto, a una sorta di tabula rasa, un anno zero. Sì, gli anni zero è l'anno zero. Quando arriva questo anno zero? Però? Secondo me è già finito. Quando è che finisce questa catastrofe? Chissà, noi siamo già nei 10, negli anni 10, dunque. Ma non finisce più questa. Non finisce più. Secondo me ci vuole ancora un bel po' di tempo. Sì, factum per il momento, a primitive future. Thank you. Il disastro completo. Hai sentito? Quella è la chiusura finale. Abbiamo concluso con i segnali persi di X04 e poi Factums che devastano completamente tutto. Non c'è più niente. Siamo andati veramente a volte. La catastrofe. Secondo me non siamo ancora arrivati a questo. No, ma loro continuano un segno catastrofico. In realtà potremmo farne veramente 100 di trasmissioni sulla catastrofe. Secondo me sì, anche perché questi anni continuerà. Dunque, non vedo termini di chiusura di questo argomento. Va bene, noi ovviamente speriamo di avervi accompagnati insieme nella catastrofe o dentro la catastrofe attuale, e ovviamente noi di 451 Frammenti Sonori vi aspettiamo domenica prossima sempre sulle frequenze di Radio Città del Capo, e ovviamente vi invitiamo sempre a visitare il blog 451frammentisonori.noblogs.org per riascoltare in caso le trasmissioni e vedere le playlist e altre informazioni. Tra l'altro troveranno anche tra pochi giorni la performance opera aperta di Albert Mayer, che ci ha visto anche certo lì presente, insomma, lavorare dentro questa sorta di esperimento collettivo che avevamo appunto, oltretutto sì, nei prossimi giorni, nelle prossime due settimane era messo nel blog, dunque avrete modo di riascoltarlo se volete o ascoltarlo per la prima volta. Ovviamente niente. Ovviamente niente. Un saluto dal niente da Max Macchia e dal niente da Eliseo Scarpa. Buonanotte.